Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Accanto a me, come sempre, la colonna della nostra trasmissione. Colonnina? Come vuoi. Colonna, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi partiamo da una notizia di cronaca che devo dire ha così stimolato il nostro interesse e ci stimola a presentarla anche ai nostri ascoltatori a casa, proprio perché è uno di quei temi, problemi, che impegnano i genitori in quelle che tu chiami sfide educative. Sì, e pensa un po', 4 anni quasi di trasmissione e ancora del tema di cui parleremo oggi non abbiamo mai parlato, quindi lo affronteremo per la prima volta, perché sempre più minori, adolescenti in particolare, indulgono nel gioco d'azzardo, spesso in forme che sono quasi ai limiti della microcriminalità, e partiamo proprio da un fatto di cronaca che ci ha molto colpito e ci ha dato lo spunto per questa trasmissione. Allora, abbiamo preparato una breve scheda per raccontarvi il fatto, per darvi tutti gli elementi, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme ai nostri esperti. Non andavano a scuola o tornavano molto tardi e chiedevano o rubavano soldi a casa. Erano schiavi del gioco d'azzardo. A Palermo le mamme insospettite hanno indagato e poi si sono rivolte alla polizia con un appello. Sono una madre disperata, aiutatemi a salvare mio figlio. Le denunce sono arrivate da decine di mamme del quartiere Ballarò. Questo scambio di informazioni è servito a far chiudere 2 sale giochi abusive della zona, dove i ragazzini, nella maggior parte dei casi minorenni, passano giornate intere davanti ai videopoker spendendo centinaia di euro. Grazie agli esposti dettagliati, la polizia amministrativa ha potuto sequestrare 10 macchinette non conformi, sprovviste del nulla osta per la messa in esercizio e non collegate alla rete telematica, e 7 abusive. I titolari dei locali sono stati denunciati e sono state inflitte loro delle multe di oltre 36.000 euro. Bene Alberto, questa scheda ci porta a fare 2 considerazioni. La prima, immediata, il rischio che il gioco d'azzardo rappresenta per i nostri figli, per i minorenni. Sì, e direi un'altra riflessione è che però i genitori possono davvero in qualche modo diventare quasi partner delle forze dell'ordine, e quando vedono qualcosa che non funziona allearsi con chi tutela la sicurezza pubblica all'interno delle comunità, perché qua sono state proprio delle madri che hanno fatto sì che delle indagini potessero iniziare, procedere e poi portare all'arresto, come abbiamo sentito dalla scheda. E in linea con noi abbiamo l'ispettore di polizia che ha coordinato l'azione descritta nella nostra scheda, e diamo quindi il benvenuto al vicequestore aggiunto Lisa Iovanna, capo ufficio stampa della Questura di Palermo. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, davvero le mamme hanno reso possibile il vostro intervento? Le mamme ci hanno aiutato e hanno soprattutto suffragato quella che era già un'attività che noi come polizia amministrativa avevamo in corso, perché il fenomeno, diciamo, di queste sale giochi abusive, di questi ragazzi che passano gran parte del loro tempo davanti a queste macchinette, era un fenomeno che noi stavamo già attenzionando da tempo, e nel quartiere Ballarò purtroppo, diciamo, è un fenomeno abbastanza diffuso. È chiaro che poi anche l'aiuto da parte delle madri ha dato ancora un impulso in più alla nostra attività e ci ha portato ovviamente ad andare sul posto e a verificare che non c'era niente di lecito. Insomma, erano sale giochi che non avevano nessuna titolarità, non avevano nessuna licenza di polizia, e le macchinette, le cosiddette slot machine, erano totalmente abusive perché non collegate a nessuna rete e senza le prescritte autorizzazioni, sostanzialmente. Dottoressa, ma cosa dice la legge esattamente rispetto al gioco d'azzardo? Ai minorenni è sempre vietato? Ci sono delle deroghe a questo divieto? Ma guardi, intanto qui dobbiamo fare un distinguo. Grazie. Noi parliamo in questo caso di macchinette che non entrano nell'area del gioco d'azzardo. In questi casi noi le abbiamo sequestrate perché non erano, diciamo, in rete, o comunque non corrispondevano non rispondevano a dei canoni che invece la legge prevede che ci siano. È chiaro che in un ragazzo magari che abbia anche una certa predisposizione, è chiaro che continuare a stare davanti a, perché poi sa, è un fatto che, come si dice, è come la ciliegia che una tira l'altra, perché poi ci si appassiona, bastano pochi centesimi, dai 50 centesimi a un euro, ma la cosa che ci preoccupa anche come polizia di Stato è che chiaramente è un gioco che di per sé non entra nella illiceità, però possa ingenerare nei ragazzi, diciamo, una sorta poi di dipendenza, capisce? È questo il passaggio ulteriore che noi cerchiamo di frenare. E questo era quello che concretamente era successo nel quartiere Ballarò. In molti casi è quello che succede, insomma, perché molto spesso ci si lascia prendere, diciamo, ci lascia prendere la mano, e quindi diventa quasi un'ossessione, ma non soltanto nei ragazzi. Noi abbiamo riscontrato, perché l'attività è un'attività che noi estendiamo in quasi tutte le zone della città di Palermo, lì dove riscontriamo delle anomalie, ma abbiamo riscontrato anche delle persone adulte che abbiamo fatto fatica, come posso dire, proprio ad allontanare fisicamente dalla macchinetta. Ecco, si entra poi in una patologia, il rischio è anche questo, insomma, che si passi tanto tempo davanti a queste slot machine, che poi si possa degenerare in ci uncinano, uncinano i nostri ragazzi, ma sì, lei diceva una dipendenza, perché poi chiaramente è come la cosa, cioè ci vuoi trovare sempre per poter lì dove non vinci, per poter però, cioè non diventa più, diciamo, un diversivo di no, qualche, cioè nell'arco di una giornata più ampia e più diversificata, ma diventa, diciamo, quasi una, cioè diventa proprio una dipendenza, e questo è quello che ci, insomma, l'aspetto preoccupante. Penso che per i minori poi ci sia un ulteriore rischio, cioè il fatto che per giocare a queste macchinette devono avere in tasca molto denaro, potrebbe spingerli anche ad azioni microcriminali, a entrare, appunto, in giri pericolosi. Certo, certo. Infatti poi diciamo che gli scenari possono essere tanti, perché magari poi ci sono i genitori che magari non vogliono sovvenzionare, o comunque quel giorno non ti danno la paghetta, ma se scatta una forma ossessiva diventa poi anche difficile da controllare. Dottoressa Iovanna, un'ultima domanda prima di salutarla. Sì. La nostra trasmissione, come lei sa, parla soprattutto ai genitori. Okay. Ecco, si metta nei panni di un genitore o aiuti noi come genitori suggerendoci delle raccomandazioni, un messaggio che in qualche modo possa aiutarci ad aprire gli occhi e evitare che i nostri figli rimangano uncinati in questi giochetti che si iniziano per caso. Quale messaggio si sente di dare lei? Ma guardi, è difficilissimo entrare nella sfera del compito che hanno i genitori di educare i figli. Io mi rendo conto, poi in questo in questa particolare epoca che noi viviamo è ancora più difficile. Io mi ricordo che alla mia età non ricordo i miei genitori che mi abbiano mai detto questo si può fare, ma questo non si può fare, ma molto io ho guardato sempre l'esempio. Forse i tempi sono cambiati, l'esempio di mio padre, l'esempio dei miei genitori mi ha insegnato molto. Io dico una cosa, cerchiamo di dialogare con i nostri ragazzi, cerchiamo di capire se ci sono delle difficoltà, non lasciamoci prendere la mano magari dal senso di colpa che abbiamo, perché magari siamo genitori che lavorano, che passano poco tempo con i figli, e pensiamo di poter sopperire a questo dicendo sì a qualunque loro richiesta. Dobbiamo mettere dei freni, perché poi il mancato controllo che purtroppo spesso ci costa ai genitori, perché magari impegnati in attività lavorative, può portare poi a delle degenerazioni. Quindi un dialogo maggiore con i ragazzi, e soprattutto non diciamo sempre di sì, cerchiamo di capire anche lì dove è necessario porre un freno a situazioni che poi possono sfuggirci di mano. Dottoressa Iovanna, io la saluto, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buona giornata e sempre un buon lavoro, grazie. Grazie a voi e buon lavoro a voi, grazie mille. Bene Alberto, allora dalla cronaca passiamo alla quotidianità, entriamo quindi nelle nostre case per capire in che modo e come fare un po' di prevenzione, soprattutto individuare i segnali che possono farci intuire che il nostro figlio si sta avvicinando in una zona pericolosa al gioco d'azzardo. Ne discuteremo con due ospiti che ci hanno raggiunto, il dottor Cesare Guerreschi, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Società Italiana di Intervento su sulle patologie compulsive. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. E in linea con noi abbiamo il dottor Vincenzo Marino, psichiatra e direttore del servizio dipendenza dell'ASL di Varese. Bentornato, dottore. Buongiorno, grazie anche a lei. Allora, adesso che vi ho presentati, andiamo al nostro consiglio di lettura. Oggi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, potete ricevere a casa il libro che si intitola Missioni, compiti, manuale di sopravvivenza per i genitori. Se volete ricevere questo libro a casa, dovete mandare un'email a essere benessere@radio24.it con i vostri numeri, recapiti e il titolo del libro. In collaborazione con IBS.it. Dottor Marino, siamo partiti da Palermo, ma quanto è diffuso il gioco d'azzardo tra i giovanissimi? Ha qualche dato? Il gioco d'azzardo è sicuramente molto diffuso. Dobbiamo considerare intanto che in linea distinguere, insomma, nel senso che il gioco d'azzardo è un comportamento normale, così come lo è per esempio il consumare saltuariamente alcolici. L'abuso e la dipendenza da gioco sono invece un fenomeno paragonabile all'alcolismo, quindi una vera e propria patologia. Diciamo che però fra i ragazzi dai 14 ai 19 anni questa abitudine è sicuramente molto più diffusa che non fra gli adulti. Per esempio, fra gli adulti vediamo che un terzo circa degli adulti, quindi 15 milioni di italiani, ha giocato d'azzardo nel corso della vita. Di questi un 10%, 1,5 milioni, ha un impulso a giocare somme sempre maggiori, quindi già un segnale di inizio della patologia, e 500.000 sono veri e propri giocatori patologici che nascondono il proprio gioco ai familiari. Bene, fra i ragazzi noi ci accorgiamo come dalle rilevazioni per esempio della ricerca ESPAD il 48% dei maschi dai 14 ai 19 anni in qualche modo ha giocato d'azzardo nell'ultimo anno, e un 25% delle femmine, un 10% quasi presenta già degli elementi di concreto rischio, quindi un valore riportato al test SOGS fra 3 e 4 risposte positive. Un dato poi inquietante è che il 5% di questi adolescenti dichiara di aver speso più di 50 euro negli ultimi 30 giorni per giochi d'azzardo, quindi comincia a diventare sicuramente un comportamento abbastanza pervasivo. Problematico. Dottor Guerreschi, siamo abituati a pensare al giocatore d'azzardo come un adulto che ha un suo reddito e che rischia magari di diventare dipendente poi da questo fenomeno, entra in una spirale che non sa controllare. Adesso voi ci dite che davvero ci sono ragazzini di 12, 14, 16 anni che hanno comportamenti di questo tipo, ma dove vivono? Che profilo hanno? Che ragazzi sono? Cosa fanno nella vita? Con che genitori vivono? Come hanno questi soldi in tasca? C'è da dire che il gioco d'azzardo ormai è ampiamente accettato come attività di svago e di cultura. È invece molto insolito vedere, per esempio, dei genitori che comprano dei biglietti alla lotteria e di venderli e accompagnare al gioco, per esempio dalla sala bingo oppure ad altri giochi, i loro figli. Le conseguenze negative associate al gioco problematico degli adolescenti le vediamo continuamente, specialmente chi lavora sul territorio, come appunto posso essere io e tante altre associazioni, ma il dottor Marino è uno dei, diciamo, degli antisignani in questo senso, e vediamo delle conseguenze veramente incredibili. Intanto la disgregazione della famiglia e delle relazioni sociali, i problemi di gioco influenzano sicuramente negativamente tutto l'apparato scolastico e, diciamolo pure, le attività lavorative. Ad esempio i giovani con problemi di gioco sacrificano volentieri il stare in famiglia, il lavoro, la scuola e gli amici solo per poter continuare a giocare. Ragioni per cui gli adolescenti giocano: il denaro certamente non è la sola ragione per la quale gli adolescenti giocano in modo eccessivo. Si pensa piuttosto che il denaro sia un mezzo che permetta loro di continuare a giocare. quando gli adolescenti con veramente seri problemi di gioco sono immersi in questa attività, niente, veramente niente li può distogliere o li può interessare, e sono perfino anche in grado di dimenticare, diciamo, i loro problemi personali. Ci sono ragioni che legano gli adolescenti, per esempio, al gioco eccessivo, per esempio c'è l'eccitazione che provano, il divertimento, vincere soldi, la pressione, che ne so, familiare, fuggire dalla noia, cercare di sollevarsi da uno stato di depressione. Sono tutte situazioni che portano l'adolescente sempre più verso il gioco. Volevo chiedere sia a lei che al dottor Marino, perché non si diventa dipendenti da un giorno all'altro. Ci sono sicuramente dei ragazzi magari più predisposti, in condizioni magari che possono favorire questo uncinamento. Dottor Marino, vuole iniziare a segnalarci quali sono i segnali sospetti che noi come genitori dobbiamo avere ben chiari e quindi da qui agire prontamente per evitare che, non dico sia troppo tardi, ma che la situazione diventi estremamente complessa? Certo, dobbiamo tenere presente che, come giustamente evidenziava il dottor Guereschi, quello che uncina nel gioco è in qualche modo l'emozione legata alla vincita. Normalmente diciamo che la disgrazia inizia con una vincita, grossa vincita che provoca un'emozione. Noi sappiamo che le emozioni fanno sentire vive le persone ed è la ragione per cui tutti rincorrono le emozioni. Alcuni ragazzi sicuramente, voglio dire, fanno più fatica in qualche modo a superare una condizione depressiva, cioè tendono, come dire, a trovare nella vita quotidiana meno stimoli che gli permettano di sentirsi vivi, di sentirsi a posto, di sentirsi in contatto con la realtà. Quindi sicuramente i fattori che possono portare poi al gioco sono complessi, in parte sono fattori di carattere sociale, perché non dobbiamo nasconderci che dietro il gioco d'azzardo esiste un'industria, esistono dei grossi guadagni e quindi c'è anche un'induzione al consumo di questo tipo di attività come per altre. Cito solo un dato: nel 94 venivano spese, giocate 8 miliardi di euro, nel 2006 ne venivano giocati 35,2 miliardi per i soli giochi d'azzardo legali gestiti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Un cenno meriterebbe anche, tra i fattori sociali, l'introduzione, la sostituzione dei vecchi videopoker con le new slot. Nel senso che i vecchi videopoker non prevedevano pagamenti in denaro, con la finanziaria invece del 2003 è stata introdotta la possibilità di pagamenti in denaro, e questo sicuramente ha aumentato, come dire, la capacità di uncinamento che questi giochi hanno. Bisogna tenere presente che perché si verifichi un meccanismo di condizionamento che spinge poi ad aumentare l'impulso a giocare, occorre che la gratificazione dell'eventuale vincita segua di pochi secondi un comportamento attivo del giocatore. Quindi pochi diventeranno dipendenti dalla schedina, cioè di Totocalcio, il cui esito si ha, come dire, dopo parecchio tempo dalla giocata, mentre le macchinette in cui si tira la leva e si ha in qualche modo immediatamente il risultato, il suono delle monetine che vengono giù, somigliano proprio a un apparato pavloviano di condizionamento che innesca il bisogno. Questi fattori di carattere sociale, di carattere psicologico, naturalmente possono trovare un terreno più fertile nella personalità dell'individuo, e quindi più i ragazzini sono, come dire, insicuri, più fanno fatica a star bene, più hanno delle attitudini depressive, delle problematiche ansiose, più questo meccanismo naturale, questo antidepressivo momentaneo legato all'attività di gioco può risultare compensatorio e apparentemente migliorativo dello stato d'animo. Quindi, comunque, i segnali che i genitori possono rilevare sono sicuramente, come dire, quelli legati alla perdita di denaro, quindi al continuo bisogno di denaro, all'essere meno attivo, come diceva bene il dottor Guereschi, relativamente alla scuola, questi ragazzini continuamente distratti. E non va sottovalutato, e chiudo, internet, che sta crescendo tantissimo come canale di gioco d'azzardo patologico. Riprendiamo a parlare di gioco d'azzardo e adolescenti, un'associazione che non vorremmo mai vedere in atto e che invece purtroppo sta dilagando, almeno in base a quanto raccontano i fatti di cronaca e ci hanno detto i nostri esperti. Alberto, abbiamo pensato di fare anche un saltino in internet. Sì, perché come ci ha detto il dottor Marino, effettivamente gli adolescenti probabilmente non si appassioneranno e non giocheranno al lotto, ma hanno bisogno di una gratificazione immediata, questo è quello che li uncina. E internet in questo senso è fantastico, perché è come avere un piccolo casinò dentro al tuo schermo, tu inserisci un numero di carta di credito, cominci a giocare, immediatamente hai la gratificazione, che è quello che li poi rende dipendenti. Dottor Guerreschi, quanto la competenza informatica dei ragazzi e quanto il mercato dell'azzardo, che è riuscito a entrare anche dentro internet in forma anche legalizzato, sta portando nuovi giocatori adolescenti dentro al problema del gioco d'azzardo? Ma guardi, sicuramente tanto, ci sono diverse anche ricerche che sono state fatte all'Uopo, direi che una delle ricerche più importanti è stata fatta l'anno scorso dall'Università di Genova e dice che il 20% degli adolescenti hanno affermato di giocare abitualmente fino al 7% fra i 15 e i 18 anni, giocare vuol dire per loro giocare online, per loro online è diventato la novità, è diventato qualcosa di importante, è diventato qualcosa che li attira moltissimo, non è solo le chat erotiche che li attira, ma li attira proprio il fatto di giocare, di poter essere loro stessi, mettersi in gioco, ma nello stesso tempo poter fare ciò che vogliono in realtà, perché si chiudono in una camera e lì possono poi giocare attraverso naturalmente la possibilità di avere delle carte di credito che è facilmente sono facilmente ritrovabili, o perché te li fai genitore o perché fai una carta di credito fatta da qualcun altro. Certamente oggi gioco online è quello che va sicuramente per la maggiore, ma nel futuro ne vedremo ancora forse delle belle, perché sempre di più noi vediamo proprio il trasportare dei giochi che oggi sono a portata di mano sul territorio e vengono trasportati online, e questo sarà un grossissimo problema sia per gli adolescenti che per gli adulti. Dottor Marino, si può fare prevenzione? Quali sono i messaggi secondo lei che arrivano ai ragazzi? Io credo che il problema è un po' questo. Bisogna imparare a fare, come dire, del marketing preventivo, nel senso che l'idea corrente del marketing è che si tratti di fare pubblicità. In realtà il marketing è la capacità di dare delle risposte a dei desideri che sono quelli dell'essere umano attraverso, come dire, dei prodotti. Naturalmente il mondo dell'industria, chiunque produca qualcosa che si vende, cerca di vendere poi un prodotto. Per esempio i narcotrafficanti cercano di vendere, rispetto al desiderio di trasgressione, di eroismo degli adolescenti, sostanze oppure altri tipi di comportamenti. Allora io credo che la prevenzione non la si può fare semplicemente con le prediche, con i divieti, individuando dei limiti, perché le prediche sono poco rispondenti ai desideri, come dire, di autonomia, di affermazione, di potenza che gli adolescenti hanno, che hanno desiderio di fare delle cose eroiche. Allora secondo me questi desideri andrebbero più canalizzati rispetto ad obiettivi socialmente più accettabili, che esistono. Allora io credo che il problema, chi si pone in una logica di prevenzione, dovrebbe mettersi nella logica come di un'azienda concorrente, voglio dire, di quelle che vendono gioco d'azzardo, di quelle che vendono narcotraffico, che cerca di vendere un prodotto alternativo che fa concorrenza, ma che sia in grado di rispondere ai bisogni fondamentali dei ragazzi. E questo naturalmente è più complicato. Quindi la prima sfida è quella di riuscire a riportarli nel territorio delle emozioni con esperienze adeguate al loro percorso di crescita, all'età che si trovano a vivere. Però io in questo momento mi metto nei panni di un papà o di una mamma che hanno scoperto che il figlio ha già fatto incursioni nel territorio del gioco d'azzardo e quindi ha giocato denaro, è andato in una sala scommesse, e questo naturalmente senza informarli, e loro se ne sono resi conto magari per uno strano giro di soldi che sono mancati da casa. Io direi che se un genitore si accorge di questa cosa, l'intervento deve essere immediato, il più precoce possibile. È proprio un intervento da genitore, cioè bisogna fare il proprio mestiere di padre e di madre. Io direi di sì, in un certo senso, però con una certa cautela. Teniamo sempre presente che noi abbiamo a fare con l'adolescenza, l'adolescenza, che è un periodo di sviluppo veramente molto molto particolare. Certamente un genitore, quando si accorge che un figlio sta giocando in una maniera che non è, diciamo, sociale, deve assolutamente intervenire. Prima di tutto, secondo me, dovrebbe dare delle informazioni sui rischi e sulle possibilità che eventualmente si possono incorrere anche a livello legale. Poi, perché no, fare anche un monitoraggio attraverso quello che è il gioco che il ragazzo sta facendo, monitorare il computer proprio nel vero senso della parola. E poi, che ne so, per esempio, ecco, sensibilizzare sti ragazzi, come diceva prima Marino, sensibilizzarli di modo che possano spostare anche il loro interesse verso cose che sono magari più fruibili e meno, diciamo così, che ti prendono nella rete. Ma sicuramente l'intervento va fatto, e va fatto, diciamo, con dovute cautele, ma sicuramente va fatto subito e presto. Ci sono tanti segnali, come diceva anche prima Marino, per riconoscere se esiste questo problema. Lui ne ha già citato qualcheduno, ma per esempio c'è questa, così, per esempio, poca frequenza a scuola, che ne so, un'ansia frequente, depressione, cambiamenti dell'umore, l'abbandono di attività di interessi per le cose, guardare troppo lungo gli eventi sportivi alla TV, chiamate telefoniche soprattutto in tarda notte. Spessissimo questi ragazzi vengono chiamati a tarda notte, trovare per esempio di biglietti di acquisto di altri biglietti di gioco nelle tasche di questi ragazzi. Insomma, i segnali ci sono, basta saper guardare e basta, credo, dedicare un po' di tempo a questi ragazzi, che spesso richiedono il tempo e molte volte i genitori non glielo danno. Dottor Marino, il genitore prova da solo o è meglio che si faccia subito aiutare da qualcuno, e in particolare da chi? Un'associazione, un professionista? Diciamo che ci sono varie associazioni, che sia nell'ambito del privato, ne accennava anche il dottor Guerreschi, la loro è una, come dire, delle più storiche e competenti, ma ce ne sono ormai in varie parti d'Italia. Noi abbiamo 3 strutture per adolescenti a cui i genitori e in generale gli educatori o gli stessi ragazzi possono rivolgersi. Il consiglio che posso dare poi in generale, perché i genitori vanno aiutati a capire questo, che gli adolescenti non accettano, sono più sensibili agli atteggiamenti che ai contenuti. Siccome non vogliono sentirsi bambini, non accettano atteggiamenti criticamente autoritari. Se però, come dire, la logica è una logica che tende a riconoscere all'adolescente la dignità di interlocutore, e si parla con la parte, tra virgolette, sana dell'adolescente, cioè la logica non è tanto di dire finirai male, eccetera, ma di dire io so che tu stesso ti stai rendendo conto che alcune cose che fai non ti corrispondono più, perché non sono son cose da ragazzini, non sono cose da adulti quali tu stai diventando. Insomma, se la logica non è semplicemente, come dicevo prima, una logica di divieto, questo io credo che paghi alla fine, perché valorizza, ognuno di noi costruisce la sua identità nello specchio degli occhi degli altri, di quello che gli altri gli rimandano, e quindi è importante che l'immagine premi le parti, come dire, socialmente accettabili. Detto questo, siccome per un genitore spesso queste cose sono fonte di grande ansia, preoccupazione, e a volte l'ansia toglie lucidità, secondo me farsi aiutare, avere la possibilità anche semplicemente di una consultazione per chiarirsi meglio la strategia, per non sentirsi da solo, secondo me può essere utile, tanto più che esistono parecchi servizi, appunto, anche pubblici, anche gratuiti, a cui è possibile rivolgersi. Alberto, abbiamo un minuto allora per fare un po', per tirare un po' le fila del nostro discorso. Ma mi sentirei di dire, anche alla luce dell'esperienza che ho io di lavoro con i genitori, 2 segnali da non sottovalutare mai, perché significano possibile entrata, incursione nel territorio del rischio, che potrebbe essere gioco d'azzardo, sostanze, eccetera. Se i vostri figli hanno perso molte giornate di scuola e non ve l'hanno mai detto, quindi avete scoperto grandi assenza significativa da scuola e questo è stato fatto di nascosto, e se c'è uno strano giro di soldi nelle tasche e nei portafogli dei vostri figli, quello è il momento in cui la situazione forse è uscita di controllo e dovete chiedere aiuto. Allora, ringraziamo i nostri esperti, il dottor Vincenzo Marino e il dottor Cesare Guerreschi. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi dell'invito. Ci avete dato davvero una mano. Io voglio aggiungere, anche sulla base di quello che ci ha suggerito il dottor Marino e che ripeti spesso tu, Alberto, diciamo ai nostri figli che gli vogliamo bene e diciamo a loro che crediamo in loro nonostante stiano sbagliando. Io penso che questo sia un esercizio che ogni genitore deve ripetere. E dico proprio ultimo messaggio: i nostri figli non sono l'errore che fanno di tanto in tanto, ma sono le persone che sono, quindi con anche qualche errore incorporato. Al prossimo sabato, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.